البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. لا لا لا لا لا لا لا. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا محتل اطلع Palestina. Buongiorno Palestina. Oggi daremo voce ad una persona profonda conoscitrice della realtà israelo-palestinese per averne seguito le vicende ed esserne stata protagonista in prima persona fin dagli anni Ottanta. Ripercorrere questi ultimi 30 anni è cruciale per capire la situazione attuale in Palestina. Infatti, vi sono stati in quegli anni dei momenti particolarmente significativi, momenti riconoscibili come punti di discontinuità che hanno segnato in modo profondo le vicende successive. Vogliamo oggi riconoscere e puntualizzare questi momenti e questi fatti decisivi ripercorrendo quegli anni della Palestina con una gradita ospite, Luisa Morgantini. Luisa Morgantini, figlia di partigiani, sindacalista dei metalmeccanici nell'autunno caldo milanese, si è battuta da sempre anche per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Eletta indipendente nel 1999 nelle liste di Rifondazione Comunista, nel gennaio 2007 è stata vicepresidente del Parlamento Europeo, con l'incarico delle politiche europee per l'Africa e per i diritti umani. In particolare è stata membro della delegazione per le relazioni con il Consiglio legislativo palestinese. Luisa Morgantini è anche tra le fondatrici della rete internazionale delle donne in nero contro la guerra e la violenza ed è tra le 1000 donne nel mondo che sono state candidate al premio Nobel per la pace. Fortemente impegnata per il riconoscimento di giustizia, diritti e libertà in Palestina, ha fondato ed è attualmente presidente dell'Associazione Nazionale Assopace Palestina, di cui troverete esaustivi riferimenti sul blog di Wombat. Lasceremo quindi la parola a Luisa Morgantini subito dopo la rassegna stampa. Rassegna stampa e notizie della settimana. Michele Giorgio sul Manifesto di martedì 7 commenta il varo del governo israeliano ancora con Netanyahu e con Gantz a rimorchio. Annessione subito di altre parti della Cisgiordania secondo il piano Trump, detto piano di pace, che secondo l'uso attuale del termine pace significa piano di altre violenze. Le altre notizie da siti nazionali e internazionali le cito solo per titoli di articoli che potete poi trovare per intero e in italiano sui siti di Amicizia Italo-Palestinese, Assopace Palestina, Cultura e Libertà, Invicta Palestina, Bocche Scucite, Infopal. Ovviamente è il coronavirus anche in Palestina a occupare i maggiori titoli, ma come se niente fosse proseguono le pratiche israeliane violente nei territori palestinesi occupati. Accaparramento della terra, violenza dei coloni, arresti, demolizioni. Una lista di queste le potete trovare su ciascuno dei siti che ho citato dianzi. Luisa Morgantini, con cui parleremo tra poco, comunica per mail che a Hebron si sta avviando la produzione di respiratori prodotti da ingegneri palestinesi. A Nablus, peraltro, una produzione di scarpe viene riconvertita in mascherine. Nablus è nella Cisgiordania, nella Palestina occupata. Microsoft ha disinvestito nella israeliana AnyVision, tecnologie di riconoscimento facciale, che vengono utilizzate nei checkpoints israeliani e palestinesi per schedare la popolazione palestinese. L'anno scorso Microsoft aveva bloccato la vendita dei suoi sistemi di riconoscimento facciale alla polizia della California. Ora Microsoft ha deciso di abbandonare del tutto il settore e di cancellare il suo database facciale, data l'ambiguità dei governi sull'uso di queste tecnologie e la mancanza di garanzie per il cittadino. Devo dire che con questo Bill Gates ha dato un'altra prova, e non è la prima, di essere qualcosa di più che solo un ingegnere ed un uomo d'affari. Lancet, rivista settimanale medica inglese, ha preso su Gaza una posizione senza mezzi termini sulle connivenze all'oppressione dei palestinesi, pubblicando un articolo che dice le cose come stanno e concludendo con queste parole: sulla base dei nostri valori morali e dei nostri obblighi professionali di medici, la comunità internazionale deve agire ora per far cessare questa violenza strutturale, affrontando quelle forze storiche e politiche che hanno costretto i palestinesi ad una realtà fatta di violenza. Per valutare il peso di un articolo come questo su Lancet, occorre tener conto che la britannica Lancet è il top delle riviste medico-scientifiche a livello mondiale. Che cosa è la violenza strutturale nominata da Lancet lo spiega un medico palestinese con un articolo sul sito di Cultura e Libertà e riprodotto anche sul sito di Amicizia Italo-Palestinese. Da rilevare anche la presa di posizione di 8 senatori americani con una interrogazione al governo americano in cui rilevano la tragedia che incorre su Gaza con il coronavirus e chiedono di, cito, aiutare i palestinesi ad accedere ad un adeguato personale medico e da mezzi di cura per combattere la crisi sanitaria coronavirus. La petizione è stata promossa da Elizabeth Warren insieme a Bernie Sanders e altri 6 senatori democratici. Nel concludere, vi ricordo i siti italiani su cui potete leggere per intero e in italiano gli articoli citati ed altri ancora. Questi sono Amicizia Italo-Palestinese, Asso Pace Palestina, Cultura e Libertà, Invicta Palestina, Bocche Scucite, Infopal. Termina qui la rassegna stampa e adesso un breve intervallo musicale in cui potrete ascoltare Unadicum, la canzone che fu l'inno palestinese della prima intifada. Buongiorno Palestina, con un incontro con Luisa Morgantini. Nelle ultime due trasmissioni abbiamo parlato di trasformazioni nelle società israeliana e palestinese negli ultimi 30 anni. Quello che vorrei chiedere a Luisa ora è che lei ci riproponesse quali sono i momenti che hanno marcato la storia palestinese di questo periodo. Cioè, in una parola, le chiedo se può puntualizzarci i momenti e i fatti che conviene aver ben presenti per meglio capire la situazione di oggi. Beh, direi quindi della prima intifada, in realtà un'intifada che è avvenuta improvvisamente, non così improvvisamente, perché bisogna comprendere che quando scoppia la prima intifada vi è stata la sconfitta dell'Organizzazione di Liberazione della Palestina in Libano e sostanzialmente la fine anche della possibilità di una lotta armata. Infatti Arafat, ma anche tutto il gruppo dirigente, soprattutto Abu Jihad, che è poi stato assassinato dagli israeliani, penso addirittura da Barak, era l'uomo che univa sostanzialmente la popolazione palestinese e i territori occupati. L'intifada è stata una scoperta per tutti noi che avevamo visto in realtà la Palestina fino a quel tempo come una terra di profughi, come una terra di rifugiati. E in realtà abbiamo scoperto che no, esisteva la Palestina, esistevano i suoi abitanti all'interno dei territori occupati della Cisgiordania, di Gaza, del Golan Heights. L'intifada è stata travolgente. Era l'intifada delle pietre, era l'intifada in cui tutta la popolazione, donne, uomini, bambini, nonne, gli uscivano per le strade con una grande, con un grande senso di identità. L'intifada è Ecco, stata. Luisa, parliamo di intifada, di prima intifada, Io e sto parlando, quindi sì, nel della 1000, prima intifada, e quindi, dell'87, quindi. sì, esatto, sì. Sì, parlo di questo perché appunto è l'87 ed è lì che si scopre che sì, c'è questa forte identità palestinese. Io ricordo benissimo, ero con loro a Ramallah, nei diversi luoghi. Ricordiamoci che la prima intifada ha significato per esempio la chiusura da parte dei palestinesi e lo sciopero generale proclamato ogni giorno dai palestinesi. È stata una cosa di partecipazione popolare immensa, di grande solidarietà, di cambiamenti, di giovani che non soltanto tiravano le pietre, ma anche pensavano, riflettevano a quella che era la strategia. Si sono formati i comitati popolari, una cosa straordinaria, ma soprattutto appunto la scoperta dell'identità. Il dire con forza e con grande chiarezza, con grande determinazione e con gioia: siamo palestinesi. E questa è stata una delle cose grandissime della prima intifada. Portare la bandiera palestinese, che io mi ricordo che per me, che ero italiana, e quindi la bandiera italiana non significava molto, se non qualcosa ha significato il 25 aprile del 45, in realtà ho capito lì che la bandiera era importante, perché intanto se i palestinesi usavano la bandiera palestinese venivano arrestati per 5 anni, e durante la prima intifada ci sono decine di ragazzini morti solo per andare ad appendere la bandiera sui bastioni dell'elettricità. E quindi la prima intifada è pietre e non fucili, pietre e La prima bandiere. intifada è stata una rivolta popolare, non violenta. È stato davvero Golia contro il piccolo Davide. Il piccolo Davide era immedesimato anche da figure di ragazzini che dai campi profughi tiravano pietre, andando contro con grande orgoglio all'esercito israeliano. Quindi è stata una grande partecipazione popolare, sono cambiate anche le questioni interne ai clan familiari. Per esempio, la Palestina è stata, molto di meno oggi, una questione di tribù, di clan familiari. Ecco, per la prima volta in realtà si sono rotti i clan ed è comparsa invece l'appartenenza del popolo all'OLP, all'appartenenza ai popoli ai diversi partiti, ad essere sostanzialmente palestinesi, non più legati solo all'appartenenza dei clan, ma legati all'appartenenza della lotta nazionale. Le donne hanno avuto un ruolo straordinario e noi come italiane, tra l'altro, siamo state con loro, con le donne palestinesi, ma anche con le donne israeliane, perché in quel periodo vi erano enormi forze anche in Israele che parlavano di pace, che da anni mantenevano contatti anche nelle loro case con i palestinesi dei territori occupati, perché nella prima intifada ancora si poteva circolare, c'era la libertà di movimento per i palestinesi. Quindi la prima intifada è stata questa grande partecipazione popolare con grandi sofferenze. Ricordiamoci che Israele aveva chiuso per anni le università, perché colpire l'educazione significava colpire un popolo. È stato migliaia di palestinesi arrestati, deportati. Ricordiamo per esempio che le deportazioni di Marwan Barghouti, ma di Jamal Zaghouti, di tanti leader della prima intifada avvenne proprio durante quel periodo, durante la prima intifada. Ecco, quindi la prima intifada è stato un momento di cambiamento politico nella società palestinese e di cambiamento anche sociale e di cambiamento anche diciamo, di intensificazione dei rapporti tra palestinesi, tra società palestinese e società israeliana, diciamo, filo palestinese. Che una città israeliana che pensava che la pace fosse un diritto per tutti, tant'è vero che c'è stata questa prima grande manifestazione nel dicembre del 90 che abbiamo chiamato Time for Peace, in cui c'erano più di 1300 italiani a questa manifestazione, che è stato circondare le mura di Gerusalemme di palestinesi e di israeliani. Vi erano 32.000 persone a questa manifestazione ed è stata una rottura fondamentale, perché Peace Now, che partecipava insieme a tutte le altre forze minoritarie dell'arcipelago pacifista israeliano, era lì, e la richiesta era riconoscere l'OLP. La richiesta era già due popoli e due stati, quindi un momento veramente importantissimo fu quella manifestazione a Gerusalemme. Ecco, quindi prima intifada e poi seconda intifada. E le due. Certo, in mezzo alla prima intifada e alla seconda intifada ci sono degli avvenimenti straordinari. Per la prima volta vi sono le trattative a Madrid, dove però non partecipano le forze politiche palestinesi, non partecipano l'ANP, che è l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, ma partecipano le persone dei territori occupati, i leader dell'intifada in realtà, con Haider al-Belshafi, grande personaggio politico di Gaza, che apre le trattative con la presenza di Faisal Husein, che è stato un leader amato moltissimo di Gerusalemme, deceduto durante la seconda intifada, con la portavoce dei palestinesi, che era Hanan Ashrawi, diventata poi parlamentare e oggi rappresentante dell'OLP. Quindi vi fu Madrid, che ha aperto grandi speranze ai palestinesi, e poi c'è stato Oslo. E Oslo ha un po', da una parte, portato speranza e una grande sfida, dall'altra però i palestinesi, soprattutto i palestinesi che erano presenti alle trattative di Madrid, si sono un po' sentiti traditi dall'OLP, perché appunto passava di mano, non era più la popolazione palestina dei territori occupati che guidava le trattative, ma era l'Organizzazione di Liberazione della Palestina in quel caso con Arafat e con gli altri leader come Abu Mazen. Ecco, diciamo, dalla prima intifada a Oslo passano, è un intervallo di 7 anni, quindi in questi 7 anni succedono tante cose. sono successe moltissime cose. Avviene Oslo, dove, e qui è sempre stato il grande inghippo, diciamo, mentre i palestinesi riconoscono, ma già lo avevano fatto con la conferenza di Algeri del 98, il 15 novembre del 98, mentre i palestinesi riconoscono lo Stato di Israele sui confini del 67 con Gerusalemme capitale condivisa, gli israeliani invece ad Oslo lo riconoscono lo Stato di Palestina, semplicemente riconoscono l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, e c'è una grande, enorme differenza già in questo fatto. Da una parte i palestinesi fanno tutte le concessioni possibili, Faisal Hussein diceva noi abbiamo abbandonato il nostro sogno di vedere una Palestina riunificata, accettiamo che siano i confini del 67 la nostra patria, e invece Israele ha semplicemente, sulla base anche della loro forza, riconoscevano soltanto l'OLP. E questa è stata in realtà una delle tragedie dell'accordo di Oslo. Ecco, poi tra l'accordo di Oslo e la seconda intifada passano altri 5 anni di fatto. Perché... Certo, perché di fatto i palestinesi hanno accettato l'accordo di Oslo pur nelle difficoltà, perché pensavano che fosse una grande sfida. In realtà hanno creduto ad Israele, probabilmente anche Rabin, che aveva firmato questo accordo, forse pensava davvero che restituire i territori occupati, come diceva lui, era in cambio della pace, e quindi aveva fatto una rottura con il mondo della politica israeliana. Rabin però venne ucciso da un ebreo estremamente fanatico, nato e vissuto in Israele, a Netanya, e che poi venne arrestato ed è ancora in carcere. Rabin aveva probabilmente davvero creduto che fosse possibile costruire la pace. Quello che successe dopo l'assassinio di Rabin non fu la continuazione di quella strada, che magari era complicata e difficile, ma poteva davvero portare entro i 5 anni alla fine dell'occupazione militare israeliana, come diceva l'accordo di Oslo. Peres scelse un'altra strada, e questo è la grande tragedia, anche il grande errore di Peres. Invece di continuare sulla strada di Rabin e pensare alla possibilità della pace, all'apertura, al cambiamento, ha cominciato a rincorrere Netanyahu sulla questione della sicurezza, e quindi Peres venne sconfitto, i laboristi vennero sconfitti, e progressivamente in Israele si è instaurato il regime di Netanyahu, che ha portato ai giorni nostri. Ecco, allora riassumendo sulle due intifade, tra le due intifade passano 12 anni tra la prima e la seconda intifada. La seconda intifada, a mio parere, è stata una cosa devastante, soprattutto per i palestinesi. Ecco, della seconda intifada magari ne parliamo appena dopo l'intervallo musicale, a questo punto. E ora un breve intervallo musicale con il gruppo Alcamangiati in concerto in Libano nell'agosto del 2018 con Mashrua al-Madina. طبعا هم بيجوا براجلي مؤقتا انا مش حافظ اماكن يعني او المدن الاصليه بس جميعهم هم من فلسطين اكيد راح يعودوا لفلسطين. المفاجأة هي خارج البرنامج ورح نخرج خارج السياق الفني اللي عملناه بإشي فني جميل جدا بس الشرط إنه الكل بده يتفاعل معنا. تفضل عدي الخطيب. للأسف البنات اللي غنوا معنا من فرقة القدس من البداوي سولو، شكراً لبوابة اللاجئين اللي عرفونا عليهم وأجوا شاركوا معنا هاي الليلة، أصوات جميلة جداً. وجميع الأطفال اللي غنوا كلهم بيتعلموا موسيقى في برنامج الكمانجاتي، إحنا طبعاً شركائنا اللي بنفتخر فيهم دائماً بيت أطفال الصمود. لفيت كل المدن، لفيت كل المدن، لفيت كل المدن والهند والصين، وخليت راسي فوق وما نزلت عيني. ومهما علي كست ومهما علي كست ومهما علي كست أيامك يا الدهر يكفيني كل الفخر إني فلسطين. طبعا علم جوز نتبك ونطيح فلسطينية منطيح، علم جوز نتبك ونطيح فلسطينية منطيح، روسنا بالعلالي يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل ما يهزك ريح. ومين احنا مين احنا الكرامة فلسطينية، روسنا بالعلالي ويا جبل ما يهزك ريح، يا جبل معلوة Riprendiamo ora con Luisa ed eravamo rimasti alla seconda intifada. Sì, con l'assassinio di Rabin, voluto da un ebreo fanatico, ma in realtà collegato ai movimenti ebrei. Ricordiamoci che quando Rabin venne ucciso, Lea Rabin, la vedova, di fronte alla presenza di Netanyahu, lo aveva responsabilizzato dell'assassinio di Rabin, perché aveva aizzato e incitato all'odio. Rabin veniva mostrato sui muri di Gerusalemme con la cuffia. Rabin non era un santo, Rabin è stato un generale che è stato durissimo durante la prima intifada, aveva ordinato di spezzare le braccia e le ginocchia ai giovani palestinesi. Abbiamo visto scene orripilanti appunto di questo tipo durante la prima intifada, però aveva capito una cosa, che era necessario anche per loro fare dei compromessi e non volere tutta la terra ma restituirla in cambio della pace, non soltanto con i palestinesi ma con tutto il mondo arabo, e intravedeva in questo in realtà un futuro per Israele. Questa cosa viene spezzata, vince la destra in Israele, e grazie appunto alla debolezza di Peres e al tradimento forse di Peres dell'accordo di Oslo, e a un certo punto durante il periodo in cui peraltro aveva vinto Barak alle elezioni, Sharon fa una grande provocazione e si reca alla moschea di Bramo sulla cupola a Ram al-Sharif e dice, per dire, Gerusalemme è nostra, è capitale indivisibile. Io ricordo perfettamente quel periodo, Arafat telefonava pregando Barak di impedire a Sharon di fare questo gesto, ma invece Barak, invece di impedire a Sharon di fare il gesto, mandò più di 1800 soldati a difendere Sharon sulla spianata delle moschee. Il primo momento l'intifada, anche la seconda, era stata un'intifada pacifista, nel senso che erano... Ecco, scusa, scusa, volevo puntualizzare un aspetto, cioè questo Barak è stato l'ultimo governo non di destra di Israele, che questa passeggiata di Sharon sulla spianata delle moschee è nel 2000, ed è questo l'ultimo, è sotto il governo socialdemocratico, diciamo così, di Barak, è l'ultimo governo socialdemocratico, perché da allora mi pare che abbia sempre vinto poi la destra e Israele si è andato sempre più a destra, è così? È così, progressivamente è aumentata la cultura della destra. Netanyahu, tra l'altro, non ha, oppure anche Sharon, ma soprattutto Netanyahu, non ha cambiato soltanto la politica rispetto ai palestinesi, andando sempre più alla destra possibile, negando qualsiasi accordo fatto a Oslo o da altre parti. Ma Netanyahu ha anche cambiato la società israeliana, perché ha introdotto il neoliberismo, ha introdotto politiche appunto liberiste, ma ha anche per esempio cambiato la struttura dei kibbutz, per esempio. È vero che i kibbutz erano arrivati a un punto di crisi anche da parte dei giovani, che non accettavano più degli schemi così rigidi, però di fatto la distruzione del kibbutz, che ormai sono diventati luoghi in cui c'è la competizione del mercato, ci sono le vendite, è grazie appunto a questa politica americana, diciamo, di Netanyahu, che ha introdotto in Israele. Quindi il cambiamento è stato anche rispetto alla società israeliana, e sempre di più è cresciuto il nazionalismo ebraico, sempre di più ha avuto prevalenza la visione messianica di Israele, e non invece quello che gli aburisti erano riusciti a fare, a mantenere un equilibrio fra le diverse forze. Ecco, qui allora c'è la seconda intifada, che dicevi ha caratteristiche diverse dalla prima intifada, e ruolo di Hamas, no? Che, certo. Ecco, infatti la seconda intifada, che era iniziata con una situazione come quella della prima intifada, in realtà con manifestazioni pacifiche di protesta contro l'operato di Sharon, e poi sfociata via via in un'intifada che non è stata militare, ma è stata un'intifada in realtà di azioni terroriste, perché uccidere i civili israeliani non fa parte della resistenza, nel senso che un paese occupato come è la Palestina ha il diritto, secondo la legalità internazionale, anche di combattere con le armi in pugno, ma non è, e non fa parte della legalità internazionale, fa saltare per aria nei mercati. E io ovviamente non accuso i poveri ragazzini che erano disperati, e che però sì, i mandanti politici di quelle operazioni, che hanno fatto male solo ai palestinesi, perché i rapporti di forza erano talmente diversi, per cui Israele nella seconda intifada ha usato non soltanto il pugno ma il tallone di ferro. Ah, e dicevano i ministri, vi riporteremo all'età della pietra, e infatti hanno bombardato, hanno distrutto città, hanno rioccupato le città. Gaza è stata divisa, dalle strade venivano distrutte, quindi non si poteva raggiungere il nord e il sud di Gaza, la gente doveva andare attraverso le spiagge per arrivare da un paese all'altro di Gaza. Quindi l'antifada è stata devastante, lo dicevano anche le donne palestinesi. Noi prima parlavamo di liberazione, parlavamo di sviluppo, da quando c'è la seconda intifada siamo tornati a curare le vittime, siamo tornate indietro. Quando c'è una lotta come quella, evidentemente la prima ad essere ferita è la popolazione civile, che non ha più una partecipazione, viene soltanto sostituita da azioni che erano devastanti, con una popolazione palestinese che non, peraltro, per quanto a volte non fossero d'accordo con queste, anche se è facile dire, ci uccidono sempre, ci portano via la terra, quindi dobbiamo reagire a ogni modo, però tranne poche eccezioni non c'è stato il coraggio di negare con forza che la strada non era quella che sceglieva. Ma, Ma il muro è una conseguenza di questo stato di tensione, di belligeranza? Ma il muro in realtà è stata un'azione assolutamente scientifica, che non è stata quella di... La giustificazione era quella di costruire una barriera per cui finalmente si creavano i confini, i palestinesi erano separati dagli israeliani, tra l'altro persone come Amos Oz, Yoshua, David Grossman, secondo me sono stati i grandi sostenitori del muro ed hanno fatto un'azione allucinante, perché sono loro che hanno scritto sui giornali europei che il muro serviva come muro di divisione, come muro anche di confini. In realtà quel muro l'ha poi dichiarato la Corte Penale dell'AIA nel 2004, è un muro di annessione coloniale, non serviva per dividere i palestinesi dagli israeliani e definire i confini, ma se si definiscono i confini erano quelli di annessione coloniale, non è certo un muro che è stato costruito sui confini del 67, quelli che la comunità internazionale riconosce come quelli che dovrebbero essere i confini dei due stati. Per cui il muro è stata una tragedia totale per il popolo palestinese, perché in realtà con quel muro si sottraevano tutte le terre e le falde acquifere palestinesi. Basta pensare al muro intorno a Calchiglia, che si prende tutte le falde acquifere intorno a Calchiglia e chiude la città all'interno di un muro. Tutti i villaggi, ed è qui che sorge tra l'altro un grande movimento popolare, che è di fatto contro quella che era la politica di Hamas, perché i contadini del villaggio di Budrus, per esempio, in modo popolare, non violento, cominciano a difendere le loro terre dal muro che li sta circondando. Iniziano quindi qui i primi movimenti anche di risveglio contro questa intifada che era stata così devastante, in modo propositivo. Nasce Belaim. Belaim è un villaggio dove praticamente il 65% della terra è stato portato via dal muro. Il muro è stato un'altra devastante azione contro, non solo contro la popolazione, ma anche contro la natura, contro gli alberi, contro gli ulivi. Quindi, però lì anche si forma appunto queste lotte popolari che diventano così importanti a partire dal 2004-2005 e che sono un'alternativa anche alla violenza e alle azioni terroriste di Hamas. Ma il muro funziona non perché diminuiscono gli attentati terroristici, non perché c'è il muro, ma perché Hamas finalmente capisce che quegli attentati erano devastanti. Io mi ricordo benissimo, perché ho incontrato come rappresentante del Parlamento europeo diverse volte Ismail Haniyeh e il governo di Hamas, e devo dire che costantemente ripetevo insieme alla delegazione di parlamentari: non è con queste azioni che si riesce a vincere, perché di fatto, se noi pensiamo tutto il periodo dal 2002 al 2005, vi è stata completamente una non presenza di internazionali all'interno della Palestina. Tutti erano disperati e preoccupati di questa situazione, e ovviamente la propaganda israeliana era tale per cui i palestinesi venivano visti soltanto come terroristi e non invece come un popolo occupato militarmente. Quindi Hamas ha cambiato la sua posizione e ha accettato di partecipare alle elezioni nel 2006. Ecco, quindi abbiamo, ci hai parlato adesso di tre forme di lotta, cioè la prima intifada sono le pietre e comitati popolari e una partecipazione di massa, una partecipazione popolare. La seconda intifada come un aspetto militare e diciamo di attentati. La terza, ci hai parlato invece di forme di lotta non violente. Ecco, queste attualmente qual è la forma di lotta che il popolo palestinese sta esprimendo? Ma le lotte popolari e la formazione del coordinamento dei comitati popolari è stata una cosa estremamente importante, che appunto è iniziata tra il 2004 e il 2005 e si è sviluppata praticamente in tutti i villaggi. Ricordiamo l'Abissale, ricordiamo Al-Massara, tutti i villaggi che come Assopace a Palestina conosciamo benissimo, perché appunto abbiamo sempre sostenuto e portato avanti la lotta popolare non violenta. Ed è stato un passaggio molto importante. Per esempio, ricordo che nei primi tempi delle conferenze, dei comitati popolari, non si osava usare la parola non violenza, si diceva lotta popolare. È stata una conquista quindi anche per i palestinesi conquistarsi alla non violenza. Una delle cose fondamentali di questi comitati popolari, che sono formati appunto nei villaggi dove il muro aveva tolto la vita, le risorse ai palestinesi, era quella di costruire relazioni con gli israeliani. Quindi ritornano qui rapporti e relazioni con gli israeliani, che erano state praticamente bloccate durante la seconda intifada, anche perché in tutto quel lasso di periodo i palestinesi non potevano più muoversi, non potevano neanche più andare a Gerusalemme. Israele aveva lavorato lacrimente per rendere i palestinesi senza libertà di movimento. Ecco, invece con i comitati popolari si formano appunto attraverso la lotta diretta sul campo, non violenta, con gli israeliani e gli internazionali. Quindi è stato un momento estremamente importante di costruzione di relazioni. Gli israeliani che andavano a manifestare insieme ai palestinesi non erano le migliaia che una volta c'erano con Pisdav, c'erano i giovani che gli anarchici contro il muro, per esempio, un gruppo estremamente attivo di israeliani che però non riconoscono neanche lo Stato di Israele, che sono per uno Stato per tutti, con diritti uguali e uguali doveri, uno Stato di eguaglianza per tutti i suoi cittadini. C'era Tayush, gruppi che sono formati durante la seconda intifada di palestinesi israeliani dell'Israele, però non ovviamente dei territori occupati, che si recavano nelle manifestazioni ogni venerdì per anni, venendo arrestati come tutti quanti, poi rilasciati, perché ovviamente c'è una doppia linea sulle carceri, gli israeliani che vengono arrestati vengono giudicati a tribunali civili, mentre i palestinesi che vengono arrestati vengono giudicati a tribunale militare. Però c'è stata questa grande speranza anche, molti ricordavano le lotte della prima intifada con i comitati popolari. Israele è stato capace però di reprimere violentemente anche le manifestazioni pacifiche, arrestando i giovani, mettendoli in carcere, quindi in questo momento, in realtà in questi ultimi 3 anni, anche la forza dei comitati popolari è scemata, anche se continuano ad agire insieme e ci sono sacche di resistenza molto interessanti e importanti, come per esempio i giovani che sono nelle colline al sud di Hebron, che cercano di mantenere la presenza sul proprio territorio impedendo alle colonie di espandersi. Ecco, c'è in Israele c'è un regime di destra consolidato e probabilmente continuativo anche nei prossimi anni, con nessuna speranza o attesa di mutamento, anzi leggevo ultimamente è tra le cosiddette democrazie in declino Israele, e c'è un gruppo, una piccola parte di israeliani che però sono combattivi e che sono diciamo così di sinistra, che sono filo-palestinesi, ma il sostegno a questi e in generale il sostegno ai palestinesi, più che all'interno di Israele, oggi lo rileviamo nel mondo ebraico, più all'esterno di Israele che non all'interno, cioè mi pare molto nel mondo americano, no? Ma non c'è dubbio, negli Stati Uniti da Jewish Voice Peace, la voce degli ebrei, tanti altissimi altri gruppi, chi mantiene una forte protesta contro il governo israeliano sono appunto gli ebrei americani democratici. C'è stata la spaccatura della conferenza dell'AIPAC con un altro gruppo che si chiama Jerusalem Street, che non è antisionista ma è comunque per due popoli e due stati, e poi c'è tutto questo gruppo invece di ebrei per la pace che sono bravissimi, straordinari, ma anche in Israele, anche se non ci sono le masse perché effettivamente sono poche le voci che protestano, però è molto interessante vedere quanti ancora sono i gruppi che si sono anche formati. Per esempio esistono e sono molto attaccati dal governo di Netanyahu, cercando di togliere i finanziamenti, tutti i gruppi che difendono i diritti umani. Uno per tutti, B'Tselem, che è una vecchissima organizzazione israeliana che fa il monitoraggio di quelli che sono le violazioni dei diritti umani che Israele commette quotidianamente nei territori. Bezalem ha avuto una funzione fondamentale, tra l'altro, in Palestina, soprattutto dalla seconda intifada, per esempio, perché sono stati loro a introdurre le videocamere da distribuire ai palestinesi per poter documentare le violazioni dei diritti umani. Bezalem, con il suo direttore Haggai Elad, per esempio, sono stati al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il discorso di Haggai è stato fondamentale per esporre appunto le violazioni che Israele commette, i crimini, perché loro della Valle del Giordano. Bezzelen è estremamente importante, ma insieme a Bezzelen, per esempio, sono formate BINCUM, che è un'organizzazione di architetti per la pace, che fanno costantemente azione per denunciare il tipo di relazioni che Israele fa. C'è ICAD, che è un'organizzazione in Italia, tutti conoscono perché Jeff Alper viene molto spesso qui, che si oppone alla demolizione delle case palestinesi, perché una delle politiche israeliane è la demolizione delle case palestinesi. Ci sono le donne di Max on Watch che hanno costantemente monitorato i checkpoint per vedere quante violazioni commettessero i soldati israeliani. C'è Breaking the Silence, l'organizzazione appunto dei soldati fondata da Yehuda Shaul a Hebron dopo il massacro che Baruch Goldstein, un medico della colonia di Kiryat Arba, aveva fatto nella moschea o nella... Ecco Luisa, dunque prima che chiudiamo, perché noi chiudiamo sempre con della musica, ma siccome nella musica mi pare che siete coinvolti anche voi come organizzazione, come la Sua Pace Palestina, dici due parole ancora sul vostro impegno in questo campo. Guarda, per Pace Palestina uno dei pilastri fondamentali della nostra attività è far conoscere la ricchezza della cultura palestinese, per rompere lo stereotipo dei palestinesi che sono vittime o terroristi, e invece mostrare la grande creatività, la grande ricchezza della cultura nel cinema, nel teatro, nella musica. Beh sì, noi siamo molto impegnati su questo, abbiamo portato in Italia per esempio anche l'orchestra giovanile insieme a Michele Cantoni, che è un italiano che vive in Palestina e che ha lavorato all'Edor Said, al conservatorio, per tanti anni, ed è un'operazione straordinaria per esempio far conoscere la musica palestinese non tradizionale, ma anche quell'altra, anche la ricchezza dell'altra. Al Camangiati abbiamo ancora aperto il progetto, abbiamo già praticamente pagato le borse di studio per 50 ragazzini del campo profughi di Calandia e anche dei Dujabalaji in Libano, e continuiamo la nostra attività in questo senso, portando in Italia teatro quando è possibile. Nel passato, per esempio, noi faccio parte anche del Freedom Theater, e tra l'altro proprio in questi giorni ricorre l'anniversario dell'assassinio di Giuliano Mercamis, che è stato uno dei fondatori dell'ultimo teatro della libertà di Genin. Quindi facciamo un'attività estremamente, io penso, importante, perché appunto il cinema, c'è una ricchezza di produzione cinematografica in Palestina tra i giovani, letteratura, è fondamentale far conoscere questa cultura dei palestinesi e farla conoscere appunto per rompere lo stereotipo, per far capire quanto questo popolo che viene massacrato costantemente, che gli viene negata libertà, eppure anche la musica diventa una dimensione di libertà, così come abbiamo chiamato questo nostro progetto con Alca Mangiati. Luisa, ti ringraziamo infinitamente per questa conversazione, e vogliamo concludere poi con un pezzo orchestrale suonato proprio dall'orchestra Alca Mangiati che tu hai nominato ora. Ti ringraziamo e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per il prossimo mercoledì, sempre alla stessa ora, alle ore 18. Arrivederci. Grazie. Grazie molto. Ora vi facciamo ascoltare una musica speciale, quella che i ragazzi di Alca Mangiati andarono a suonare una volta al checkpoint di Calandria. I soldati israeliani, armati fino ai denti, rimasero smarriti di fronte a questa sfida. Erano addestrati alla violenza, ma non sapevano come comportarsi di fronte ad una forma di lotta non violenta e così pacifica come quella della musica. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 18. Inshallah! Columbia, you know, I mean...